Il coordinamento Lesbiche Romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Quella che state per ascoltare, abbiamo un dubbio amletico io e Moni Penny. Non sappiamo se è la 185 o la 186, ma tanto per voi è la stessa cosa, no? Penso. Va Penso bene. Proprio di sì. Esatto. Allora, è con grande piacere che vi parlo oggi da questi microfoni. Perché l'argomento di cui parleremo ce lo stiamo sballottando da qualche settimana, perché è talmente tanto veramente intricante che meritava un po' di attenzione. E so che questa sera ci ascolterà Rossella, che doveva essere qui con noi, diciamo che comunque è con noi lo stesso. Nuova entri del gruppo, diciamo. Esatto, doveva fare il suo debutto radiofonico, lo farà a distanza per un impedimento temporaneo, ma la prossima volta spero che sia comunque presente, perché la sua voce è veramente incredibile, va usata e va sfruttata al massimo, oltre ad essere molto simpatica, chiaramente. Allora, come ho detto all'inizio, con me c'è Monica, che invece è ormai una veterana della radio. Per età, naturalmente. Sì, va bene, lasciamo stare questo aspetto. Che va bene, forse va bene. Tralasciarlo è meglio. Dunque, insieme ci prenderemo la briga di analizzare con voi questo... come definirlo senza diventare immediatamente scurrile? Questo... come definirlo senza che mi venga un travaso di bile, non riesco proprio, cioè questo opuscolo, ecco, definiamo questo opuscolo, questa sorta di vademecum per genitori ed operatori che le edizioni San Paolo, per nome e conto del Vaticano, hanno messo in circolazione. Ora, di solito di stronzate la Chiesa ne spara tante, e anche oggi le cronache ce ne hanno ripoltate un po'. Ma a noi premeva, in quanto lesbico, mettervi a conoscenza di questo in particolare, perché chiaramente il tema è l'omosessualità. E ci premeva mettere in luce, in modo in cui subdolamente, passando attraverso una facciata di sincera voglia di comprensione, in realtà si elargiscono i dettami di quella intransigenza di cui, bontà sua, il pastore tedesco per eccellenza ci aveva già sufficientemente abituate in passato. Chiaramente ci farebbe molto piacere sapere la vostra posizione al riguardo, e quindi vi ricordo che potete farlo mandandoci un SMS al numero 338-4146-682, oppure telefonare qui a Radio Onda Rossa fino alle ore 22 allo 06 49 17 50. Ma potrete entrare in contatto con noi anche mandandoci una mail al nostro indirizzo di posta elettronica, che ricordo è contatti@clrbp.it. Allora, io direi, Monica, se sei d'accordo, visto che certo, la parte che dobbiamo leggere è sufficientemente corposa, di mandare in onda una canzone che ha un titolo particolarissimo, che abbiamo scelto più per il titolo che per altro, oltre ad essere, vabbè, una bella canzone. È una canzone di Daido e il titolo è I Am No Angel. Right. If you gave me just a coin for every time Allora, il libro opuscolo o libercolo si chiama ABC, presentazione di obiettivo CAIRE. Trattasi di un'equipe multidisciplinare formata da professionisti del campo medico, filosofico, pedagogico e da sacerdoti, ovvero i professionisti della morale. Leggiamo. L'ottica adottata è quella del magistero della Chiesa. Mi soffermo sulla parola magistero, magister, maestro. Recupero vecchie nozioni. La Chiesa insegna, ammonisce, indica il cammino. Di certo non difettano in autostima. Mentre io mi interrogo, loro hanno le risposte. D'altronde il loro capo, definito familiarmente il pastore tedesco, è per definizione infallibile e dunque per estensione, qualsiasi cosa i vertici del clero dicano o pensino, rientra nel solco della verità assoluta. Ciò che attualmente turba e non poco i pensieri del suddetto pastore tedesco e della buonanima dell'ex presidente del Senato, favoloso poterlo chiamare ex presidente del Senato, Marcello Pera, è l'affermarsi del relativismo perché mina un certo assolutismo e quindi le basi del pensiero fondante di chi ha il duro compito del perenne magistero. Comunque mi sento un'ingrata. A modo loro si preoccupano di me, delle mie consimili, ed io mi lascio prendere dai pregiudizi. Mi impongo di leggere il libro. L'agile libello in prefazione entra subito nel vivo della questione. Cercheremo di toccare diversi aspetti legati alla tendenza e al comportamento omosessuale con l'ausilio della storia, della filosofia, della psicologia, della pedagogia e di altre scienze. Obiettivo di queste pagine non è solo quello di sfatare alcuni luoghi comuni alquanto diffusi, ma anche e soprattutto di comunicare a coloro che sperimentano il disagio della pulsione omosessuale in sé o nelle persone vicine che una via per affrontare la situazione c'è, è reale e percorribile. Di colpo mi sento sparire il senso di ingratitudine e mi fermo a riflettere. Tendenza. Essere lesbica è una tendenza. Il termine significa anche inclinazione ed essa può essere istintiva o consapevole. Istintiva. Si dice di un cane che ha la tendenza ad aggredire gli estranei, quindi no, non mi riconosco in tale definizione. Ma tendenza significa anche avere, possedere certe propensioni, esempio a spiccate tendenze per la musica o ancora a tendenze di destra o di sinistra. Cosa direbbe il clero se dicessi loro che hanno la spiccata tendenza di pontificare su tutto? Ecco, va già meglio. Certo che definire in prefazione il mio vissuto come il disagio della pulsione omosessuale è aver già emesso la sentenza. Pulsione, spinta, impulso, proveniente dall'intimo dell'individuo. Ridurre la mia storia ad impulso che crea in me stessa disagio fa parte del magistero della Chiesa? Che ne sa la Chiesa di cosa mi provoca intimamente agio o disagio? Sono o non sono dei presuntuosi ficcanaso? Troppo facile, mi direte, sì, troppo facile sbugiardarli, ma il punto è che hanno veramente delle facce di bronzo. Sacre, ma pur sempre di bronzo. Meno male che la premessa del ragionamento era di voler sfatare i luoghi comuni, altrimenti con un comunicato stampa di poche righe senza bisogno di scomodare la filosofia, la psicologia, la pedagogia ed altre scienze, avrebbero potuto più agevolmente richiamare la storia. Sì, la storia, quella dei roghi e quella dei rager. Padre Ferdinando Colombo scrive la presentazione. È un testo che accoglie infinite ansie di liberazione, un manuale per educatori, genitori, sacerdoti, per chi crede che il Signore creò l'uomo maschio e femmina e disse non è bene che l'uomo sia solo e per questo creò la donna. Un sussidio tranquillo che non emargina, non classifica, vuole dialogare portando i propri irrinunciabili argomenti, il fine manifesto ricostruire la serenità e l'equilibrio in chi cerca serenità ed equilibrio. Mi chiedo, potrebbero prevedere nel loro ordine di studi almeno un seminario di logica? Infatti, nel momento in cui dichiarano francamente che i principi che portano in discussione sono irrinunciabili, come può essere possibile l'ascolto e il dialogo? Le infinite ansie di liberazione, cui sinceramente mi associo, sono conducibili a partire dal clero e dalle parole del Signore che mi ha creato per essere la dama di compagnia del maschio. E dunque, se al maschio non faccio compagnia, anzi non desidero vederlo neppure in fotografia, che fa il Signore? Si incazza con me perché vengo meno al disegno del creato? Il libro però è carente su questo, non ho trovato alcuna esplicita risposta. Minacce tante, risposte nessuna. Ma procedo con ordine. Pagina 5. Sesso biologico e identità sessuale. L'identità sessuale è la coscienza della propria appartenenza ad un determinato sesso, delle differenze con l'altro sesso e dei fattori psicologici, culturali e del ruolo che gli individui svolgono nella società. Identità di genere. L'orientamento sessuale è la preferenza sessuale che si sviluppa in conseguenza del sesso biologico e dell'identità sessuale che dirige il comportamento sessuale. Tutto chiaro cosa dobbiamo da discutere? Se ne deduce che la confusione è generata dal non rispettare, non avere coscienza dell'orientamento sessuale insito nel sesso biologico e quindi la stessa identità di genere risulta essere disordinata in quanto non si riconosce né si adegua al ruolo che gli individui dovrebbero svolgere nella società nel rispetto degli attuali modelli psicologici e culturali. Insomma, se nasci femmina, comportati da femmina. Se nasci maschio, comportati da maschio. Nulla da dire. Il trionfo della tautologia. Ma sempre a pagina 5 si dice ancora. Dove si colloca l'omosessualità? L'omosessualità è una preferenza sessuale predominante e persistente per persone dello stesso sesso. L'omosessualità non è determinata dal comportamento sessuale. Predominante e persistente. non si tratta della degustazione di un buon vino, ma dei miei sentimenti, linguaggio da caserma. Sono lesbica, ma il mio lesbismo non è determinato dal comportamento sessuale. E da cosa allora? Cosa devo fare infine per potermi definire lesbica? Andare dal notaio? Farlo certificare dall'ufficiale di stato civile? O entrare in convento? E non ridete? Lo sappiamo tutti che lì hanno una certa esperienza di certe cose. Ma nel rigo successivo trovo la spiegazione. Ci sono persone con tendenze omosessuali che non compiono attività sessuali o che ne compiono di eterosessuali. Allo stesso modo ci possono essere persone eterosessuali che hanno comportamenti omosessuali senza che questi modifichino la loro preferenza sessuale. L'omosessualità riguarda dunque una preferenza, tendenza o inclinazione sessuale. Non è uno stato, una condizione, un'identità. Le preferenze sessuali, come quelle di altro genere, sportive, alimentari, musicali, pur non essendo indipendenti dall'identità di una persona, non ne costituiscono l'aspetto essenziale. Ci siamo. La confusione sotto il cielo è grande e c'è chi l'aumenta di proposito. Intanto, se sei omosessuale, è bene astenersi dai rapporti, così il Signore non si incazza. E poi, perché farla tanto lunga con la preferenza? Si sa, è volubile. Oggi vuoi fornicare con una donna, domani con un uomo. Oggi mangi carne, domani sei vegetariana. L'anno scorso hai frequentato un corso di nuoto, quest'anno non ne vuoi sapere, ma insomma che volubilità. Per fortuna la Sacra Romana Chiesa ha una spiegazione per ogni genere di bizzarria comportamentale e sentenzia. Omosessualità e persona con tendenze omosessuali non sono la stessa cosa. No, infatti, si tratta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Si potrebbe dire lo stesso per la loro vocazione. Non è la stessa cosa avere tendenze religiose ed essere prete, perché essere prete riguarda una tendenza, una credenza, un'inclinazione, e dunque anche la loro non è e non può essere un'identità fondante per la loro stessa vita. Ma leggiamo a pagina 6. Sintomo, ferita e latente eterosessualità. L'omosessualità è dunque un sintomo. Si potrebbe correttamente definire anche ferita, poiché costituisce una lesione alla propria identità di genere. Non è corretto definirlo una malattia, perché la diagnostica clinica contemporanea ha sostituito il concetto di disordine o di disturbo a quello di malattia. Il fatto che l'omosessualità non compaia più nell'elenco dei disturbi dei manuali diagnostici non significa però che essa non costituisca un disordine. Il suo depennamento non è avvenuto in seguito ad un dibattito scientifico, ma sotto l'azione di gruppi di persone ideologicamente orientati. Non esistendo una natura omosessuale, non esiste un'omosessualità latente. Si può invece correttamente affermare che le persone con tendenze omosessuali hanno un'eterosessualità latente, che per qualche motivo è impedita o ostacolata. Ecco la condanna finale del con buona pace del sussidio tranquillo che non emargina, non classifica, vuole dialogare. Ed ecco tanto lavoro per psicologi, psichiatri e strizzacervello vari del Vaticano e dintorni, che ci vorrebbero curare la ferita di genere dovuta ad oscuri e remoti traumi che, ormai rimossi, procurano comunque la ferita all'identità di genere. E non ci sono confronti. Il fatto di essere state incautamente depennate dall'elenco delle patologie psichiatriche, se a decidere fossero stati i preti, anche quell'inganno sarebbe stato rapidamente rimosso. Dunque, siamo tutte eterosessuali latenti. Politicamente si potrebbe tradurre con eterosessualità negata. E chissà, su tali basi potremmo decidere di sfidare per danni morali e materiali i nostri genitori, o il violentatore di turno, o il prete pedofilo. Ma dovremmo citarli per somme alte, molto alte. Almeno ci guadagneremmo qualcosa. E comunque l'omosessualità non esiste. Il lesbismo non viene neppure nominato, perché non esiste la natura omosessuale. Ma basterebbe leggere qualche studio di etologia per sapere che in natura abbondano comportamenti omosessuali in numerose specie. O il Signore creò le femmine dei vari animali perché i relativi maschi non restassero da soli? No. La biblica citazione non riferisce si riferisce agli umani. Per il resto del creato, l'Onnipotente deve essersi distratto proprio nel momento cruciale della creazione. In quanto al disordine, devo confessare che lo preferisco all'ordine. Chissà perché, ma quel termine mi rimanda ad ideologie nefaste e lo lascio in eredità proprio alla Chiesa, che con il suo passato deve ancora iniziare a fare i conti e a pronunciare il mea culpa per la violenza che ha prodotto imponendo la sua identità. D'altronde oggi, come prendere sul serio una religione basata su prescrizioni valide per un popolo di pastori medio orientali e basata su pregiudizi che risalgono alcune migliaia di anni fa? Tali pregiudizi li portano ancora ad affermare: la maggioranza non è orgogliosa di tale inclinazione, non considera la propria omosessualità normale, non teorizza il riconoscimento dello stile di vita gay come positivo per sé e la società. Non so dove hanno reperito tali dati. Non citano alcuna fonte, né statistiche, o resoconti di questionari debitamente somministrati, oppure sgrigliati, per cui non ho remora alcuna nel confutare quanto affermano. Non vi è alcun orgoglio ad esibire, bensì una serena e pacata convinzione che circonda me stessa e le mie amiche, traducibile con un fortunato slogan del CLR. Lesbiche e mbè. Inoltre, la serenità e la pacatezza del nostro essere si è arricchita negli anni grazie anche alla sensibilità delle persone, che ha subito un processo in avanti tale che persino la mia cattolicissima zia alcuni anni or sono riuscì a dirmi: lo so che sei uomosessuale, ma a me non mi importa, ti voglio bene. Di certo se ne è infischiata delle prescrizioni morali della sua chiesa, ha riconosciuto la mia identità e poi ha voluto conoscere anche la mia compagna. Ciò è bene non solo per me stessa, ma anche per il resto della società. Le inclinazioni lasciamole al bere e al mangiare, delle tendenze è bene che se ne occupi la moda o la sociologia, dell'influenza della chiesa sarebbe bene sottrarre gli esseri viventi, mondo animale compreso. Thank you. Comunque vi ricordiamo che anche questo è un brano che ha qualcosa a che vedere con ciò di cui stiamo parlando, è di Melissa Etheridge e si intitola Mama, I'm Strange. Piacerebbe moltissimo dire che ciò che abbiamo letto è nostro perché lo condividiamo in tutto e per tutto, purtroppo non è così, ma per merito della nostra carissima amica Angela che ogni tanto ci manda dalla provincia delle chicche, sì, di queste letture. Noi in realtà un po' l'abbiamo stimolata perché le abbiamo dato la copia di questo opuscolo, lei ci ha scritto questa cosa di getto quasi indovinando senza che noi si parlasse quali erano i punti, esattamente quali erano i punti su cui ci piaceva insistere. Io poi magari dirò ancora qualcosa, ma ad Angelo va il nostro grazie. Assolutamente sì. Per aver saputo così tanto intelligentemente e diciamo in maniera acuta individuati i punti che a noi stanno a cuore. Grazie sempre, Angela. Gli appuntamenti. Allora, oggi negli appuntamenti il CLR la fa da padrone, nel senso che diamo notizia di due iniziative che organizziamo una volta con il CLI e una volta con la libreria Zora. Iniziamo dal prossimo appuntamento, le compagne che ci hanno preceduto hanno già detto qualcosa, si tratta di venerdì 9 alle ore 19. E si tratta di un intervento di Simonetta Spinelli intitolato Audre Lorde e i nuovi soggetti migranti in Italia, esperienze a confronto. L'evento naturalmente è aperto a sole donne e insisterà appunto nella sua analisi di questa figura centrale e fondamentale del Black Lesbian Feminist, anzi una madre diciamo di questo movimento, che è appunto Audre Lorde, che rappresenta in sé l'insieme delle aspirazioni delle comunità afroamericane e anche delle famiglie indo-inglesi, essendo nata a New York appunto da una famiglia indiana, e a questo ha dato voce nel suo femminismo e nel suo guardare appunto alla lotta delle donne. Said I don't want any Vogliamo ricordare ancora che Lorde parlò di razzismo nel movimento femminista, di sessismo nella comunità afroamericana, di amore e di amore lesbico, quindi non ha risparmiato nessuno dei temi più scottanti anche all'interno diciamo dei movimenti che più le stavano a cuore, che più frequentava, per i quali appunto spendeva la sua passione politica, ma non scrisse mai per sé. Il suo obiettivo erano gli altri, i suoi figli, i bambini, le donne, gli omosessuali e così via. Scrisse in onore di tutti quelli che non potevano parlare con la propria voce. Scrisse per quelle donne che avevano paura di parlare perché era stato insegnato loro a rispettare la paura più che se stesse. Sia nelle poesie che nei saggi, la Lorde pone l'accento sul valore della parola come forma di resistenza, come mezzo di riappropriazione della propria vita da parte di coloro che, all'interno della società, vengono relegati ai margini, perché donne nere, perché donne omosessuali. perché donne omosessuali nere. Tra i meriti della scrittrice va ricordata la sua partecipazione alla nascita di Kitchen Table Women of Color Press, che è una casa editrice, era una casa editrice riservata alla pubblicazione delle opere di donne di colore, il cui lavoro, secondo la scrittrice, andava incentivato proprio perché fosse colmato questo divario esistente tra le voci maschili e quelle femminili nel panorama culturale americano. Vi ricordo allora che di tutto questo parleremo insieme a Simonetta Spinelli venerdì 9, ore 19, presso la Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, organizza CLR e CLI, e naturalmente l'evento è aperto ancora a sole donne. Bene, ed ora diremo l'altro appuntamento che vi ha anticipato prima Monica, è Sappho Garden, con proiezione del video di Margherita Giacobino, e l'evento è organizzato da noi del CLR e dalla libreria Zora. Allora, il video che verrà proiettato si intitola Sara, e ricordo ancora è di Margherita Giacobino, e Sara è il ritratto di una donna, una scrittrice, un'amica, Sara Zanghi, siciliana di origine e romana di adozione. Si racconta con generosità e calore, dall'infanzia alle prese con un padre autoritario e geloso, al primo amore adolescente per una vicina di casa, dal suo ruolo di professoressa alternativa nelle lotte studentesche, al lungo rapporto con che la unisce alla sua compagna. Ne emerge un'esistenza vissuta sul filo della ribellione, di un tranquillo coraggio e di un appassionato e sorridente amore per la vita, in un'Italia che va dalla società chiusa e omofobica degli anni 50-60 fino al mondo apparentemente liberato di oggi. Noi consigliamo di venire a vedere questo video perché ne vale la pena, e poi come di consueto Sappho Garden segna quella che noi consideriamo la chiusura dei lavori del nostro gruppo, quindi avremmo piacere di salutarvi tutte quante, dandovi poi l'appuntamento a dopo le vacanze. Allora vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87.900 MHz. Rammentiamo ancora che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo intanto tutte le donne che ci hanno mandato un loro messaggio, dopo ne daremo conto. Sì, assolutamente sì. E che ci state anche ascoltando via internet, anzi ci farebbe piacere sapere da dove. Anche oggi aspettiamo un riscontro da parte vostra, anche semplice, come ormai siete abituati a fare con il famoso trillino. Basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa 06 49 17 50 una sola volta e poi riagganciare. Infatti qui da noi ogni volta, ormai insomma siete veterani anche voi, ogni volta che squilla il telefono si accende una luce verde sul mixer, che sta a significare che qualcuno ci sta ascoltando, e vi possiamo garantire che insomma per noi che siamo qui è veramente piacevolissimo sapere che ci siete. Assolutamente sì. L'altro mezzo che avete è ormai diventato il riempitivo fondamentale della nostra esistenza scrittoria e cioè l'SMS. Ripeto quindi il numero di cellulare 338 41 46 682. E ancora, se le cose che avete da dirci sono così tante che ovviamente in un SMS che sapete a battute limitate non entra, potete inviarci una mail all'indirizzo di posta elettronica contatti@clrbp.it. Oppure ci inviate un fax, che dici? Va bene anche il fax, sì, noi sì, siamo sì, un po' sì, antiquati. Infatti noi abbiamo messo l'SMS perché è una cosa molto immediata, ma io mi rendo conto che a volte le cose da dire sono talmente tante. Oppure che... magari bisogna rifletterci, no? Esatto. O viene dopo voglia di dire qualcosa. Esatto. Allora anche il fax va bene, 06-6864-201. Poi ci potete sempre scrivere, perché insomma non, assolutamente è, non sì. è che abbiamo perso l'uso della anzi. Scrittura, anzi, noi siamo presso la Casa Internazionale della Donna, delle Donne, come sapete, Bell'Apsus, via San Francesco di Sales 1B, 00165, Roma. Bene, adesso ascoltiamo un brano molto importante di una cantante per noi particolarmente significativa, è Sinéad O'Connor, la canzone molto famosa. Lo era in quegli anni, stiamo parlando degli anni compresi tra l'89 e il 90. Sì, fine 80. Fine 89-90, il CD è datato copyright 90, il titolo è Nothing Compares You To, e Sinéad O'Connor, come sapete, da quell'anno non ha praticamente quasi più calcato le scene, perché proprio le sue posizioni anticlericali, antipapali e antivaticane hanno avuto come conseguenza un ostracismo da quasi tutti gli spettacoli da allora. Come mai? Ma che strano, non capisco perché ci sia stata questa reazione. Io sono convinta che sarebbe venuta la nostra manifestazione Novat, tu che dici? Che sono certa di questo. E allora, Nothing Compares You To, Sinéad O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been choose. E mentre Sinead O'Connor viene lievemente sfumata, volevo dirvi che, siccome diciamo sempre e ripetiamo spesso il telefonino del CLR sul quale mandare i messaggi, volevamo leggervi due che sono arrivati adesso. Intanto ringraziamo anche chiunque ci abbia mandato i trillini, la lucetta si è accesa e ci ha fatto molto piacere. Comunque diamo lettura ai messaggi. Allora, primo messaggino: per questo cristianesimo d'austeria un solo rimedio, un sano ripristino del buon vecchio femminismo fisico e robusto anni 70. Come fare a non essere d'accordo? Assolutamente, per forza bisogna essere d'accordo, però naturalmente diamo anche voce a chi insomma non la pensa proprio come noi. Non la pensa proprio come noi, sempre che io riesco a trovarlo naturalmente. È il secondo messaggino che è arrivato. E dice molto amabilmente: siete due cretine disturbate, anziché fornicare non si potrebbe formicare? Ma perché, scusa, le formiche non fornicano? Ma che ne so, secondo me no. Si potrebbe aprire una puntata su questo. Potrebbe essere molto interessante. Scusa, possiamo fare una puntata? Vabbè, sono stanca, scusate. Ma saranno solo le formiche nere con le formiche nere, le formiche rosse con le rosse o le nere con le rosse? Bella domanda. Possiamo chiederlo, vabbè, no. Beh, al la nostra scienziata no. Angela questa volta. Al Mastino che ci scrive... dice che è troppo chiedere troppo, vabbè. Credo proprio di sì. Però vabbè, sai, mai trascurare la possibilità. Ma i Mastini che ne sanno di come le fanno le formiche, scusa. È vero, un'altra specie, un'altra razza. Va bene. Vai. Allora, dunque, per rispondere alla nostra amico, insomma, che ci ha scritto questa cosa relativo al ritorno del buon femminismo degli anni 70, vorrei leggere ancora qualche piccola chicca da ABC che, come dire, mi è caduta sott'occhio, perché purtroppo c'è una deformazione professionale, per cui quando si tratta di narrare la storia, di narrarla in un certo modo, naturalmente io faccio una particolare attenzione. Per esempio, non è che voi per caso abbiate creduto che l'omosessualità fosse già famosa e praticata nell'antichità, vero? Perché dice questo Ameno Puscoletto? Per prima cosa si deve precisare che di omosessualità come conseguenza di un indebolimento dell'identità di genere non c'è traccia nell'antichità, così come nella cristianità medievale. Si tratta di un fenomeno, tipicamente moderno, sorto in conseguenza dei mutamenti culturali successivi, indovinate a che? Alla rivoluzione del 1789. Dai. E in particolare alla rivoluzione culturale del 1968. Grazie per il culturale del mitico 68, naturalmente, con i pro e i contro. E l'avreste mai immaginato che la rivoluzione francese avesse consentito e dato patente di nobiltà all'omosessualità, naturalmente maschile, Ma qui... sì, dai, tu te la ricordi Lady Oscar, no? Come no, benissimo, io me la ricordo benissimo Lady Oscar. Certo, benissimo. Allora, e prosegue questo Ameno Puscoletto: nell'antichità, come nel Medioevo, si trovavano sodomiti, naturalmente, che per vizio, per manifestare la propria superiorità o per altri motivi compiono atti omosessuali nei confronti di giovani di schiavi, così come esistono forme di prostituzione maschile. Naturalmente questo non vuol dire che erano omosessuali, No, per carità. Era solo una deriva. C'era una tendenza, forse. C'era una tendenza, appunto. Vabbè, possiamo dire, scusa se ti interrompo, prego, che comunque in ogni caso erano molto disordinati pure loro. Sì, è un gran disordine, c'è una confusione. Ma scienza capisce niente. Oh, e dopo aver ripercorso la rivoluzione detta francese, chissà perché detta francese, poi qualcuno me lo dovrà spiegare. Perché qualcuno gliel'ha detto, forse, non forse l'hanno francese, studiata davvero, gliel'hanno solo detto. Sì. E il 1848, la seconda data che ha aperto le porte naturalmente a tutta l'omosessualità. Chiudiamo una parentesi sul fatto che le posizioni vaticane in proposito sul 48 sono molto confuse, ma non ha importanza. Solo quelle. E il 68, ecco, arriva finalmente il femminismo, eccolo qua. Anche le vicende relative al femminismo e all'omosessualità, in qualche modo, ruotano attorno a queste date epocali, perché naturalmente, come sapete, il femminismo nasce solo nel 1789 con la dichiarazione, immagino che avesse in mente, dei diritti, certo, delle cittadine, delle donne, di Olympe de Lampe de Gouges, naturalmente, immagino, non sono mica sicuro. Me lo auguro, non ci girerei. Poi avverte: analizzeremo insieme la storia del femminismo e dell'omosessualità, perché entrambe si muovono nella stessa, nella stessa direzione rivoluzionaria, tendente a modificare la concezione della persona come essere creato libero e intelligente. Beh, intanto noto una cosa che non mi dispiace affatto, e cioè che ha utilizzato il femminile entrambe, quando i due termini, femminismo e omosessualità, sono tutti e due maschili. È interessante, no? Bene. Cioè, finalmente abbiamo un femminile universale, no? Dopo aver per anni, per essere soggiaciuti per anni all'universale neutro maschile, finalmente abbiamo questo. Va bene, io direi che su questa cosa abbiamo detto anche troppo, forse di rivoluzione qualche d'un'altra avrà qualcosa più intelligente da dire, quindi lo ascoltiamo. Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Sentite che meraviglia. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. E prima di riprendere la lettura ancora di qualche minuscolo passaggio, che poi metteremo a confronto con due notizie secondo noi molto interessanti, ringraziamo Monica da Prato che ci fa i complimenti per questa trasmissione, fa sempre molto piacere sapere che ci ascoltate. E naturalmente vi farà anche a voi piacere sapere che, essendo diciamo noto questo dato, secondo l'opuscolo, che gli omosessuali sono persone davvero poco raccomandabili. Infatti si sa, dicono, che gli omosessuali sono più frequentemente dipendenti dalla nicotina, tendono all'abuso o dipendenza da altre sostanze rispetto a quello che naturalmente fanno gli eterosessuali. Io scusate, ma scusate le papere stasera, ma veramente faccio molta fatica a diciamo entrare in sintonia, a rimanere tranquilla, a rimanere, ecco, sì, esattamente, a avere un atteggiamento non coinvolto in questo, ecco. Perché appunto sento dire delle cose di me e quindi ovviamente, siccome vorrei avere anch'io una parola su questo, qualche piccola incertezza. Comunque, oltre alle dipendenze, dicevamo, da nicotina, da altre sostanze, sottinteso stupefacenti naturalmente rispetto agli eterosessuali, è ovvio, come ci ha detto svariate volte in quest'ultimo periodo il nostro pastore tedesco, la tendenza è di avere dei legami fragilissimi, sì, che durano pochissimo. Sì. Chissà perché, io conosco un sacco di gente che convive da 20, 10, 15, 9, 25, 23 anni. Chi lo sa, forse li ho trovati tutte io, che dici? Non lo so, forse sì, boh, non lo so. Va bene, comunque ci ho detto, in sintesi, dice questo volume, a pagina 32, volume è una parola grossa, Sì, questo infatti, libricino. No. Non si tratta in questa sede di stabilire se l'omosessualità sia o no una malattia, un disturbo, un disordine, se sia giusta una denominazione piuttosto che un'altra, ma di mettere in guardia dalle affermazioni totalizzanti di coloro che sostengono trionfalmente che l'omosessualità, in base ai criteri scientifici, non è più una malattia. Ed è abbastanza ovvio questo, perché? È perché gli omosessuali hanno una tendenza a essere vittimisti, ma a no. sentirsi oggetto di persecuzioni immotivate. Ma no. Tant'è che il termine omofobia ne è una dimostrazione. Certo. Sapete perché? Perché se una persona non condivide l'ideologia gay, rischia di essere additata come omofoba. Il termine fobia indica una paura intensa, esagerata, per situazioni, oggetti, azioni che il soggetto prova nonostante spesso non ne capisca la ragione. Il fobico, posto a contatto con lo stimolo specifico, presenta in genere vere e proprie crisi. Esempi di fobia: claustrofobia, aracnofobia. Appare decisamente fuori luogo, evidente, etichettare chi non condivide l'ideologia gay come omofobo. Ciò che viene chiamato omofobia, infatti, non è una malattia, no. ma è un atteggiamento di non condivisione, è alla faccia, nei confronti dell'ideologia gay, e di non approvazione nei confronti dell'omosessualità, che non significa odio o disprezzo nei confronti delle persone con tendenze omosessuali. No. Infatti, l'omosessualità vive senza persone, cioè certo. non è, è assolutamente astratta. Certo. Certamente verrebbe da chiederci che non c'è un amore molto astratto, come dire, cioè, abbiamo, sì, abbiamo saputo insomma qualche notizia che i giornali hanno riportato, vero? Anche perché diciamo che noi ci battiamo tanto dal partire dal desiderio, mentre invece la Chiesa tende ad eliminare il desiderio e parla di castità, no? Ma noi abbiamo insomma scoperto questa notiziola che ci fa capire che in fondo anche tra gli adepti forse qualche problema all'astinenza c'è, vero Monica? Come no? Leggo dalla Repubblica di domenica 14 maggio 2006. Un monsignore a Valle Giulia, una strada vicino a Parioli, a Roma, in cerca di incontri omosessuali con un trans e una denuncia a suo carico per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. A notare CB, CB, 48 anni, monsignore della Segreteria di Stato residente in Vaticano nella casa di Santa Marta, oh, Madonna, è stato una volante della polizia. Gli agenti si sono accorti di movimenti sospetti in una Ford Focus e non appena si sono avvicinati, l'uomo all'interno della vettura, il monsignore, ha tentato di tagliare la corda, ma è andato a sbattere contro alcune auto, compresa quella della polizia. Per chi avesse tentato di allontanarsi è apparso chiaro poco dopo. «Voi non sapete chi sono io!» ha detto appena sceso dall'auto, vestito con abiti civili, agli investigatori. E loro, sulle prime, erano convinti di avere a che fare con uno dei tanti frequentatori notturni dell'area ridosso del Museo di Arte Moderna. E sono convinta che gli hanno detto zitti tutti, famosi, fa sapere chi è. Certo, regno storico della prostituzione maschile nella capitale. Esatto. Tanto che, senti Caterina, questa è bellissima, quando i poliziotti hanno proceduto a una breve perquisizione della Focus e hanno trovato sul sedile posteriore un abito talare ben piegato con tanto di scarpe nere ben lucide, hanno pensato a una festa in maschera. Certo, certo. La vicenda per CB è finita quasi alle 5 del mattino negli uffici della questura con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Gli ha pure menato, hai capito? Guarda. Alla faccia della non violenza. Ora toccherà al PM romano sbrogliare la matassa. La situazione è delicata anche perché, in base a quanto acquisito sinora, l'uomo sarebbe dottore in diritto canonico, pure autore di alcuni testi universitari e funzionario presso la prima sezione della Segreteria di Stato in Vaticano. Com'è che si dice? Predica bene? E razzola malissimo, oh, super male. Madonna. Soprattutto se avviene quanto avviene ultimamente, diciamo, nelle alte sfere del Vaticano. Posso interromperti un attimo, certo, dicendo che se ci fanno arrabbiare noi poi reagiamo tanto? Mi pare ovvio. M'hai minacciato? Ora la paghi, mio caro. Sappiamo benissimo che su Pax, sapete che noi non siamo favorevoli naturalmente a nozze gay, il Papa ha ampiamente, come si dice, lanciato anatemi di medievale memoria. Strali. Ricordiamoci che il presente si chiama Benedetto, nome medievale, non ce lo scordiamo questo. Oltre a ribadire tutto ciò che è possibile sulla possibilità dell'embrione di essere essere umano dotato di dignità umana sin dal prima frazione di nanosecondo, come prima potremmo ancora, dire prima ancora, direttamente dallo spermatozoo, non ma prima, cioè, prima, molto prima, prima. Naturalmente, come dire, ha immediatamente sottolineato che questi benedetti gay, insomma, pretendono addirittura di godere diritti equivalenti ai matrimoni, ma ne rifiutano gli obblighi. Manna. Mi piacerebbe sapere quali sono gli obblighi che rifiutano. Gli obblighi coniugali, no, non credo che siano quelli, perché cioè, anzi. No, non mi pare, anzi è arrivato un altro messaggio. Credo di sì, infatti. Vai, ora vado a vedere se è un'ennesima minaccia oppure se eccolo. Ma allora siete sceme, sono Rosina. Rosina, sei troppo forte. Naturalmente ci mancava la voce dell'ironia. Dunque, naturalmente finiamo con l'unica speranza che ci è data, la cosiddetta terapia riparativa. Certo. Perché non ci sottoporremo, anzi a Catena ce ne stiamo proprio andando, perché andiamo subito a fare la terapia. Va bene, ci ho detto, questa meravigliosa terapia riparativa ci convincerà che in realtà la nostra non è omosessualità, perché non siamo persone omosessuali. L'omosessualità esiste senza di noi. Non è una bellissima rassicurazione, non me devo manco impegnare, meglio di così, ragazze mie. Come faccio ad eliminare qualcosa che non c'è, scusa? Non c'è? Mi pare evidente, non c'è. È un parto delle nostre menti malate. Se non c'è, non c'è, scusa. Benissimo. Allora, detto questo, naturalmente rimane la nostra... come possiamo dire, grande gioia di aver potuto parlare con voi di queste cose, diciamo eufemisticamente. Fateci sapere veramente che cosa esattamente ne pensate. E venite alle nostre iniziative Aperte Solo Donne. Vi salutiamo con immenso affetto, Monica e Caterina, e vediamo entrambi appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Un abbraccio a tutte, ciao. Yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.